nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentrovate, bentrovate ancora una volta, e ormai è estate e ci avviamo all'ultima parte di Nessuno è Perfetta, ma insomma siamo ancora qui, siamo in queste domeniche da spiaggia estive, ma siamo qui a parlare di un tema che ci riguarda tutte da vicino, quale ruolo, quale futuro attende questo pezzo di comunità italiana che corrisponde alle donne che lavorano. Il tema caro a Nessuno è Perfetta, ed è caro anche a voi che ci mandate sempre più numerosi messaggi alla casella vocale, ve la ricordo, 828 12 12. Settimana scorsa abbiamo parlato, come sempre, di dimensione, di famiglie, di qualcosa che riguarda anche la dignità di tante donne, e abbiamo parlato anche della, come dire, tendenza maschile che in Italia resiste a ignorare la presenza delle donne. Beh, ci avete scritto, ci avete mandato dei messaggi vocali e io vorrei sentirne qualcuno insieme a voi. Male panel, che brutta parola, Maria, e che brutta abitudine quella di organizzare convegni ed incontri nei quali le donne non sono nemmeno prese in considerazione. Ho apprezzato la decisione presa dal ministro Provenzano, vale a dire di non partecipare a vertici in cui spicca l'assenza femminile. Un atto simbolico, per carità, ma speriamo sia di buon auspicio, cara Maria. Grazie per la compagnia e complimenti per la trasmissione. Eh già, è vero, una brutta abitudine quella di organizzare convegni e di non considerare che una comunità nazionale è fatta di uomini e di donne. E beh, sono totalmente d'accordo con te che sottolinei come è importante che ogni tanto, anzi sempre più spesso, anche gli uomini italiani si sentano a disagio se invitati a un dibattito in cui sono solo loro, solo maschietti, a parlare. E su questo mi piace ascoltare con voi un'altra voce che ci ha mandato il suo commento all'828 12 12. Ha ragione la senatrice Bonino. In Italia la parità di genere esiste solo il sabato e alla domenica nei convegni. Poi dal lunedì chi ha il potere reinserisce il pilota automatico e sceglie gli uomini che conosce, di cui è amico e che gli girano intorno. Grazie, saluti da Giulia. In realtà Emma Bonino non ha tanta ragione, perché purtroppo, come abbiamo detto domenica scorsa, neppure il sabato e la domenica si ricordano gli sbadati che ci sono donne di talento da invitare ai dibattiti, perché spesso appunto i dibattiti sono tutti maschili, cara Giulia. E a proposito di parità di genere, questa settimana continuiamo ad occuparci di questo tema, come è nella storia di questo programma, ma da un punto di vista, da un'angolazione diversa. Il decreto elezioni è diventato legge e il 20 settembre in molte regioni italiane si tornerà a votare. Ci sarà un election day che è spalmato in due giorni, regionali, comunali, e il referendum costituzionale, quello che dovrebbe confermare o negare la decisione di ridurre il numero dei parlamentari. La novità è che in Puglia e in Liguria si voterà con la doppia preferenza per garantire l'equilibrio di genere, così come aveva stabilito una legge, la legge del 2016, e che però alcune regioni non avevano ancora applicato. Anzi, sapete, alcune regioni, segnatamente in Puglia e in Liguria, sono nati anche dei movimenti che chiedevano appunto che fosse applicata la doppia preferenza anche in occasione delle prossime regionali. Piemonte, Calabria, Friuli, Venezia Giulia e Valle d'Aosta per il momento non l'hanno ancora introdotta. Il movimento in Puglia è stato molto particolarmente vivace e con segnalazioni che sono arrivate anche al Premier Conte, proprio perché c'è una relazione tra il numero di donne che poi possono decidere in un consiglio regionale con una sensibilità ai temi che riguardano le elettrici e il fatto che in tanti consigli regionali di donne ce n'è pochissime, ma proprio poche. Il mantra di nessuna è perfetta è che senza donne questo paese non riparte. E mi pare che ci sia un segnale incoraggiante con la decisione appunto di applicare nelle prossime elezioni regionali in Puglia e in Liguria finalmente anche l'obbligo della doppia preferenza. Ma prima di parlare di temi politici, quello che riguarda la parità di genere nelle liste elettorali per le regionali e per le amministrative che andremo appunto, di cui ci occuperemo appunto nel prossimo autunno, io ho la curiosità di sentire com'è stata l'esperienza di una nostra Sunday Girl che torna tra noi, ma che domenica scorsa era da un'altra parte. La Sunday di questa domenica, la nostra Sunday Girl, è un graditissimo ritorno, è Monica Guerritore. Buona domenica, Monica. Buona domenica a tutti voi. Senti, ma tu domenica scorsa eri da un'altra parte, eri agli Stati Generali, eri a Villa Panfili con colleghi appunto del mondo dello spettacolo e con il presidente del Consiglio Conte. Com'è stata questa domenica che molti hanno criticato e che molti invece hanno considerato interessante? È stato molto interessante. Se qualcuno mi avesse detto che avremmo passato un pomeriggio, perché sono state 4 ore con un presidente del Consiglio e 4 ministri a parlare del racconto dell'essere umano, di quello che potrebbe accadere, di come reinventare il paese, di avere una visione del paese, io non avrei detto no, non è possibile. Invece è successo proprio questo, e quindi uomini di grande personalità come Tito Boeri, come Alessandro Baricco, come Giuseppe Tornatore, cioè Fuksas, io cito le persone più solide dal punto di vista culturale e di quello che hanno fatto nel mondo. Per quanto riguarda me, per quanto riguarda Massini, noi siamo degli artigiani dello spettacolo e potremmo anche incidere meno, però ci sono stati ad ascoltare e dei progetti, delle proposte sono venute. Il mondo dello spettacolo vive momenti difficili dopo 3 mesi di lockdown. Avete parlato anche di questo? Noi abbiamo parlato soprattutto di questo, ma del fatto, per quanto riguarda me, che ho parlato di teatro, io devo dire la prima cosa che ho detto è grazie di aver chiamato una donna a rappresentare questo mondo, è che il mondo stava già boccheggiando, il mondo del teatro era diventato in qualche modo una sorta di riserva indiana, destinata solo ai più ricchi e destinata solo ad alcuni... a qualche pubblico, perché lo spettacolo itinerante, che è quello dei teatri privati, se non riceveva già più quasi aiuti, per cui eravamo noi attori, tecnici, maestranze, ad andare in giro con i nostri costumi, le nostre scenografie, a portare il teatro in tutti i luoghi d'Italia, ma con enorme sacrificio. A questo punto non si possono chiedere soldi allo Stato, questa è una considerazione che tutti noi ci dobbiamo fare, però almeno ci devono dare la possibilità di creare impresa dal nostro sistema culturale teatrale e quindi tornare in televisione e quindi rimettere al centro il teatro come forma artistica, poter essere d'aiuto alla scuola, cioè il teatro deve ritornare ad essere in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, e questo creerà di nuovo volano per il teatro, per l'industria cinematografica e per l'industria televisiva, che è il braccio armato, diciamo, del teatro. È come la Ferrari fa il prototipo, però non è che vive di Ferrari, poi vive di macchine, al massimo, al meglio, però sono macchine che vengono replicate attraverso i mezzi di distribuzione. Monica, ti chiedo una breve pausa e poi torniamo subito da te. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 Mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno con la nostra Sunday Girl di questa domenica, Monica Guerritore. A differenza di quel che vedo in altri paesi, penso alla Francia, c'è stato un distacco, un depauperamento nella formazione culturale dei nostri ragazzi, che a teatro non vanno, mentre i ragazzi francesi e i ragazzi tedeschi ci vanno, per non parlare delle scuole di teatro fantastiche che ci sono in Gran Bretagna. Basta portare i ragazzi a teatro nelle mattinee, a scuola? Il nostro progetto non è il teatro alle mattinee, assolutamente. Il nostro progetto è tenere aperti i teatri al mattino per fornire aule scolastiche, cioè il palcoscenico diventa il luogo degli insegnanti, la platea diventa il luogo degli studenti, le materie che hanno a che fare col teatro, la tragedia greca, la letteratura classica, la lettura ad alta voce, l'analisi del testo, l'arte performativa, sono tutte materie che gli studenti hanno. Gli attori e le attrici possono affiancare i docenti. Questo crea amicizia da parte dei giovani, conoscenza del luogo teatro, che è il luogo preposto per la riflessione sull'essere umano, il luogo preposto dove mettere insieme cuore e testa. Non c'è niente da fare. Quindi il registro degli attori che stiamo portando avanti come legge, e questa è un'altra cosa che Gualtieri ha apprezzato, è proprio il registro della professione. Potrà essere dato ai comuni, potrà essere dato al MIUR, in ogni città ci potranno essere a disposizione degli attori e delle attrici che con un minimo sostegno possono affiancare i docenti in palcoscenico. Monica, prima di salutarti ancora un paio di domande. La prima è: come hai vissuto tu questi 3 mesi di reclusione? Perché più o meno tutti l'abbiamo vissuta così. Vabbè, come un resettare. Eravamo veramente finiti in un gorgo di grande frastuono, è come se fosse veramente il linguaggio Babele, tra politica, tra aggressioni, tra volgarità, sia di immagini che di contenuti, tutto questo silenzio che si è creato, questa attesa di persone che ne sanno più di te. Perché adesso possiamo anche dirci hanno sbagliato o non hanno sbagliato. Il problema dei virologi non è il problema del virus, è il problema dell'essere umano. È assolutamente imprevedibile. Un tumore può prendere a te in un modo e a un altro in un altro modo. È l'essere umano che è imprevedibile, non può incasellare nelle sue reazioni. E quindi è chiaro che hanno dovuto barcamenarsi, così come si è barcamenata la politica. Ma tu che cosa ricordi di questi 3 mesi? Qual è, diciamo, la sensazione o la lezione che ti sei portata dietro da questi mesi di lockdown? Che non siamo immortali, che non siamo immortali e che e c'è una fragilità che ci consegna all'altro, perché con l'altro si può interloquire, e che ti manca l'altro, e quindi avevamo più voglia di parlare con l'altro, e quindi i ragazzi hanno avuto più voglia di stare con gli altri e hanno capito che questo mezzo qua, che è il computer, il web, eccetera, è un sostituto, ma che non compete con la presenza dell'essere umano. Abbiamo capito che abbiamo bisogno degli altri, e soprattutto la cosa che io ho capito di più è la coscienza collettiva. Io mi sono sentita nella psiche collettiva, mi sono sentita insieme agli altri, senza parlarci, ma sapevo che noi lavoravamo e camminavamo tutti insieme. Questa è una cosa che dobbiamo tenere ora. Non voglio sentire politici che per un punto di sondaggio buttano all'aria il tavolo. Non li voglio sentire, perché dentro di noi c'è ancora questo movimento di andare verso un futuro che in qualche modo ci conforti. E dobbiamo farne tesoro anche noi singolarmente, perché sennò è troppo facile scaricare sempre solo sulla politica. Siamo anche noi quelli che dobbiamo difendere quello che abbiamo appreso in questi mesi. Monica, grazie per essere stati con noi a Nessuno è Perfetta. Torna grazie. Presto, tornerai a raccontarci di Totti quando magari avrete finito le riprese e staremo sul punto di vederlo. Grazie, buona domenica. Grazie. Vi avevo anticipato che oggi parleremo di elezioni in autunno, ed è con noi Marida Dentamaro, avvocato, docente di diritto pubblico, è stata anche senatrice per il Partito Democratico. Buona domenica Marida Dentamaro. Buona domenica, buongiorno a voi. Com'è possibile che una regione grande come la Puglia abbia solo 5 donne su 50 consiglieri? Perché, come è noto, il potere tende a perpetuarsi, e il Consiglio regionale pugliese ha creato questa sorta di barriera all'accesso, rifiutandosi di svolgere le azioni positive che, come dicevo, la Costituzione impone per favorire la partecipazione femminile. Si ripresentano sempre gli stessi candidati, abbiamo preannunci di candidature per la quinta volta, cioè c'è chi aspira a celebrare le nozze d'argento con il Consiglio regionale. Naturalmente uomini, quinta, naturalmente uomini. E quindi le donne fanno fatica naturalmente ad entrare. Le donne fanno fatica in Italia su tanti fronti, la politica non apre loro le porte, perché appunto, come diceva lei, si difendono le posizioni acquisite in anni e non si vogliono dividere con nessuno, ma le donne fanno fatica su tanti altri fronti. Cito la fotografia che viene da queste cifre di questa settimana, per cui appunto ben 35.000 neo mamme hanno lasciato il lavoro nel 2019 perché è impossibile coniugare la famiglia e un'attività. 14.000 sono gli uomini che hanno lasciato il lavoro per lo stesso motivo, ma insomma è una situazione, quella italiana, che quasi non ha confronto con questi termini drammatici con il resto d'Europa, e questo dipende anche dal fatto che le decisioni in politica, come nelle aziende, come nella vita di un paese, le prendono ancora prevalentemente gli uomini? Certamente, c'è un problema di organizzazione sociale, c'è un problema di mentalità, di cultura dell'organizzazione sociale, per cui i compiti di assistenza e di cura nelle famiglie competono ancora prevalentemente alle donne nella mentalità comune, ma c'è anche una politica che, essendo appannaggio quasi esclusivo degli uomini, non pone rimedio a questa situazione. La Costituzione lo impone, impone di rimuovere gli ostacoli anche di ordine sociale che impediscono la piena parità, la piena partecipazione di donne e uomini alla vita politica, economica e sociale del paese. Avvocato Dentamaro, però non è un po' colpa anche delle donne che evidentemente continuano a votare candidati uomini, forse perché li ritengono più all'altezza di una combattiva, di una guerra che in qualche caso bisogna combattere? Forse le donne elettrici non considerano le altre donne abbastanza preparate? No, io non credo che questo sia vero. Diciamo che il margine di scelta è troppo limitato tra le donne. Le candidature continuano ad essere candidature prevalentemente maschili. Le donne che vengono inserite nelle liste sono donne per lo più poco conosciute. Cioè, non dobbiamo dimenticare che a compilare le liste sono i partiti. E quindi se i partiti non inseriscono donne all'altezza, è chiaro che le candidate non vengono poi votate. Ma le liste insomma, le decidono Marida, i partiti che sono organizzati. Marida Dentamaro, lei sta dicendo che i partiti che sono gestiti da uomini scelgono appositamente spesso delle candidate che non fanno loro ombra e che quindi a loro volta non vengono considerate credibili poi dalle elettrici? Sto dicendo esattamente questo, sì. È un bel circolo vizioso, non se ne esce. Grazie all'avvocato, docente e ex senatrice Marida Dentamaro. Buona domenica. Ai suoi tempi non era possibile. Ma oggi Darwin può andare in radio. Qui, su Radio 24, è iniziata una nuova trasmissione. Darwin, l'evoluzione della scienza. Dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Storie di scienza, di tecnologia e di innovazione. Dai robot che cucinano le lasagne alla realtà aumentata per la chirurgia. Dalla scoperta del primo dinosauro acquatico al riciclo dei pannolini. Darwin, tutto quello che si può raccontare sulla scienza. Dal 29 giugno on air tutti i giorni alle 20:50. Con Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Ma vi chiederete perché? Perché è così importante che ci sia una parità di genere anche nelle candidature regionali? Perché? Abbiamo chiesto a chi ci può dare una risposta, perché nella sua regione, nella regione Lazio, la doppia preferenza è stata introdotta. E dunque, buona domenica Michela Di Biase, consigliere regionale del Partito Democratico alla regione Lazio. Michela Di Biase, che cosa è cambiato per i cittadini del Lazio da quando è stata introdotta la doppia rappresentanza e quindi quante donne in più sono state elette nel Consiglio regionale del Lazio? Il dato è sorprendente, perché da quando noi abbiamo la doppia preferenza di genere, che è stata votata nella regione Lazio, diciamo l'anno successivo alla legge del 2016 nazionale, quindi nel 2017, noi siamo passati, le faccio l'esempio del PD, da 0 donne elette a 7. Quindi ci rendiamo conto che diciamo, il dato è stato insomma, assolutamente importante, quindi adesso noi abbiamo una rappresentanza delle donne che è diciamo, non ancora congrua, non è ancora lo specchio di quella che è diciamo, la società che viviamo, però le donne hanno insomma, ora siedono all'interno dei banchi della. E quante donne ci sono sul totale di consiglieri regionali? Quante sono le donne, Michela Di Biase? Sono 16 donne su una platea di 51, quindi comunque non tantissime, diciamo, al di sotto, però la doppia preferenza di genere su questo ha costituito un grandissimo diciamo aiuto. Io penso che le donne quando poi siedono e hanno la possibilità di entrare all'interno delle istituzioni siano in condizioni di portare un grandissimo valore aggiunto. Io se penso ai provvedimenti che io e le mie colleghe ecco, ci siamo battute. Possiamo fare qualche esempio, certo, Michela Di Biase? Che cos'è che avete portato di diverso a vantaggio delle cittadine del Lazio? Faccio un esempio che purtroppo riguarda molte donne, una cosa su cui ho lavorato molto, per esempio è stata uno sgravio e quindi un contributo economico per le donne che purtroppo sono costrette a fare la chemioterapia, che fanno cure oncologiche e che debbono acquistare una parrucca. Per esempio all'interno della mia regione le donne non avevano un contributo economico per l'acquisto della parrucca e io ho lavorato affinché attraverso un emendamento che è stato votato nella legge di bilancio, per cui oggi una donna che vive una mutilazione importante come quella della perdita dei capelli può tamponare questo dolore, questa momentanea perdita diciamo anche di identità, fatemi dire, perché poi insomma chi ci è passato, a me tantissime donne me l'hanno sollecitato come il momento più brutto della loro vita, possono diciamo vedersi e accettarsi in modo diverso. Io questo lo dico sempre, solo per fare una parrucca costa dai 600 ai 3.000 euro se la compriamo di capelli neri, quindi immaginate, certo, per una donna che vive un dramma. Sono molto costose e sono poi anche costose. Tutta l'attenzione sanitaria per ricordare, lo so perché abitando nel Lazio mi arrivano le lettere della regione che mi ricordano di fare il pap test, la mammografia. Su questo devo dire che la regione Lazio è molto attenta e insomma dobbiamo il merito a un sistema sanitario insomma efficiente. L'altra questione su cui per esempio mi sono molto impegnata è quella dell'intervento di ricostruzione contestuale della mammella, perché succedeva che in alcuni casi, trattandosi di due prestazioni separate dal punto di vista economico, le donne subivano un intervento di mastectomia e dovevano tornare dopo 6 mesi per fare l'intervento di chirurgia estetica. Noi abbiamo previsto che invece lì, ove la medicina lo consenta naturalmente, si possa effettuare un intervento contestuale di ricostruzione, che questo significa per le donne non uscire dalla sala operatoria mutilate. Tutte certo, noi sappiamo che cosa psicologicamente è un grande aiuto. Michela, ma poi sì, prego. Volevo ampliare un po' il tema anche in una logica nazionale. È notizia di questi giorni che in un anno, nel 2019, 35.000 italiane, mamme da poco, hanno lasciato il lavoro per l'impossibilità di coniugare tutte e due le cose. 35.000 lavoratrici e 14.000 neopapà hanno fatto questa scelta. Avere dei figli in Italia è una scalata che, se non sei ricco, spesso non dici vabbè, non li faccio. Non li faccio oppure lascio il posto di lavoro. Il dato parla chiaro. 35.000 persone sono un'enormità. La verità è che il peso della gestione familiare grava per la quasi totalità sulle donne, quindi poi se qualcuno deve diciamo appunto decidere di fare un figlio, abbandonare il posto di lavoro, purtroppo lo fanno quasi sempre le donne. Qui noi dobbiamo intervenire davvero con forza. dobbiamo intervenire con forza, perché la questione femminile viene spesso trattata unicamente in campagna elettorale. Io penso che su questo noi dobbiamo avere uno scatto di reni. Sono di questi giorni accesi, diciamo, richiami su tutto quello che riguarda la scuola pubblica. È necessario investire in modo maggiore, assolutamente maggiore, sui servizi, su tutto quello che è il famoso welfare familiare, di cui io sento parlare ormai da anni, no? Ma è chiaro che se noi avessimo una scuola pubblica all'altezza, diciamo, della funzione che svolge, se noi avessimo per le donne una maggiore anche possibilità di vivere la propria città, perché poi proviamo a metterla un po' a terra, nelle grandi metropoli le donne per raggiungere il posto di lavoro impiegano anche un'ora, un'ora e mezza, è tutto tempo che viene sottratto al mondo femminile. E poi naturalmente tutta quella che è la gestione anche dei genitori anziani lì dove ci sono, insomma, noi sappiamo che sono le donne a farsi carico. Il welfare l'abbiamo fatto noi in Italia, sono 50 anni che il welfare lo fanno le donne, il welfare non si può più sostenere. Allora, il welfare lo fanno le donne, ma non sono le donne che hanno fatto le leggi che regolano il welfare. A mio avviso su questo noi dobbiamo essere, io per questo spingo tanto perché ci sia un'equa rappresentanza delle donne in politica, ma non solo, anche all'interno dei luoghi, diciamo, dirigenziali, nelle grandi aziende, perché è fondamentale. E ce l'ha, come dire, il Covid ce l'ha proprio messo davanti agli occhi, è stato un enorme lente di ingrandimento di quella che è la situazione italiana, diciamo, ce l'ha proprio balzata come un'evidenza. Noi però allora a questo punto dobbiamo lavorare perché ci serva direzione, e quindi rispetto a tutti quelli che sono dei luoghi dove le donne sono sottorappresentate, noi dobbiamo fare una battaglia comune, una grande battaglia di sorellanza per far sì che veramente nessuna rimanga indietro, perché poi le donne si sentono appunto emarginate, si sentono sole, si sentono che non ce la fanno e decidono di lasciare il posto di lavoro, entrando poi spesso anche in un circolo, come dire, distorto, per cui poi sono costrette a dipendere dal marito, generando poi naturalmente tutta una serie di problemi che francamente a mio avviso in una società civile e soprattutto in una società proiettata, diciamo, negli anni a venire, io non trovo che sia corretto. Quindi su questo è un danno individuale ed è un danno per il paese, perché i paesi nei quali le donne danno un contributo lavorativo quasi alla pari con gli uomini hanno un prodotto interno lordo che corre molto di più di non quanto solo, non succeda. Hanno gestito anche molto bene questa crisi legata al Covid, perché per esempio i paesi a trazione femminile, diciamo, hanno fronteggiato bene anche questa emergenza, quindi noi su questo dobbiamo assolutamente farla una riflessione. Qui non si parla proprio, come dire, di dare a tutti le stesse opportunità per far sì che poi tutti le abbiano nella fase successiva, no? Quindi consentire alle donne di entrare per aiutare le altre donne a stare meglio. Io guardi, lo vedo anche in consiglio regionale da me, le mie colleghe, io ho citato due dei provvedimenti che ho fatto io, ma veramente grazie all'impegno di altre colleghe abbiamo fatto dei provvedimenti importanti, penso al gender pay gap, penso al revenge porn, penso ai sussidi che abbiamo sul piano della famiglia, tutto un lavoro che è stato fatto nella maggioranza per appunto incentivare proprio in questo momento di crisi quelli che sono i sostegni alle famiglie, insomma. Le donne poi io lo dico sempre che la narrazione di chi dice le donne sono le peggiori amiche delle donne è una narrazione tutta sbagliata, molto maschilista. No, ma è una narrazione che ha fatto comodo per secoli agli uomini. Non v'è dubbio, sì. Rivendichiamo la grazie, che mi pare che facciamo bene. Grazie a voi. Grazie Michela Di Biase, consigliere regionale nella Regione Lazio per il Partito Democratico. Buona domenica, grazie. Nessuna è perfetta. Chissà chi chissà che cosa pensa di tutto quello che abbiamo detto finora sulla doppia preferenza nelle elezioni regionali che si terranno il 20 settembre prossimo. Chissà cosa ne pensa Francesco Borgonovo, giornalista della Verità e autore di un saggio, La malattia del mondo, pubblicato da UTET, nella quale tratta anche la questione di genere. Buona domenica, Francesco Borgonovo. Buona domenica a te e a chi ci sente. Ecco, io... Ma Francesco, è una falsa preoccupazione quella che muove, per esempio, questo movimento che in Puglia chiede che ci sia una doppia preferenza per fare eleggere anche le donne, perché sennò nei consigli regionali nessuno si occupa delle istanze che riguardano la famiglia, che riguardano le donne. È qualcosa che ti sembra superfluo? Io sicuramente è una risposta a un problema che esiste. Non penso che sia la risposta giusta, nel senso che tutti i sistemi di quote, di imposizioni per legge, per norme, sia qui che sia in Italia che all'estero, secondo me non hanno mai funzionato bene. Tra l'altro io non penso che una donna sia necessariamente più rappresentativa di tutte le donne rispetto a un uomo. La rappresentanza a specchio è molto discussa da tanti anni, dagli scienziati politici, non certo da me. Dopodiché credo che sarebbe, come dire, il mondo auspicabile, quello in cui anche un uomo può fare gli interessi della parte femminile della popolazione, non c'è bisogno di mettere una legge che imponga due candidati di sesso diverso. Io credo che sia una cosa che fa, insomma, va un po' di moda, risponde anche a un'esigenza, però se ne può fare a meno. Ma Francesco, a dire la verità, a guardare anche cosa succede in generale nel mondo, non sono proprio interessatissimi gli uomini a fare spazio alle donne. Basta vedere certi convegni, certi dibattiti, ne abbiamo parlato qui a Nessuna è Perfetta la settimana scorsa, dove sono solo uomini, talché persino qualche maschio adesso comincia a sentirsi a disagio. L'ex ministro Andrea Orlando, il ministro Provenzano hanno ironizzato su questi convegni in cui ci sono solo faccine maschili. C'è un po' la tendenza a dire, vabbè, ma che cosa vogliono queste rompiscatole? Lasciateci governare da soli, l'abbiamo fatto per millenni, continueremo così. Credo che questa sia una tendenza di, come dire, tutti i politici, non solo verso le donne, vale anche per i giovani, vale anche per gli anziani, vale anche per chi la pensa diversamente da loro. Lasciateci governare, non rompeteci le scatole. In generale chi avanza delle richieste è un rompiscatole e purtroppo questa è una brutta tendenza dei politici di casa nostra. So che ci sono stati anche vari convegni in giro per l'Italia, anche con una partecipazione femminile notevole proprio sulla questione della doppia preferenza, e anche lì si è notata una cosa, alcune studiose hanno notato il fatto che dove è stato applicato questo metodo non sempre a un maggior numero di donne corrisponde poi una maggiore attenzione verso le tematiche femminili. Il punto secondo me è questo, cioè non fare una questione di rappresentanza di genere, cioè non concentrarsi su chi porta avanti le istanze, ma concentrarsi sul tema, perché che cosa interessa oggi a una donna comune, all'italiana media, diciamo così, ammesso che esista, beh, forse che ci sia un posto in più per una donna in un convegno le interessa meno che avere uno stipendio un po' più alto, per esempio, oppure per avere un assegno di maternità o la possibilità di stare in smart working non solo quando c'è il virus, ma anche quando aspetta un bambino e può stare a casa con tutte le tutele che sono dovute, visto che poi in parte le nuove tecnologie lo permettono. Quindi credo che sia più una questione di agenda che di effettivo personale politico. Michela Di Biase, del Partito Democratico, consigliera regionale nel Lazio, ci ha appena detto che un'aumentata presenza femminile nel Consiglio regionale del Lazio ha fatto sì che passassero delle iniziative, ci fosse attenzione per delle tematiche che prima venivano ignorate. Quindi questo un po', diciamo, contrasta con i tuoi dubbi. Però voglio chiederti un'ultima cosa che riguarda invece la nostra professione. Nei giornali i direttori sono quasi sempre uomini, salvo appunto la collega che dirige La Nazione, Agnese Pini. Di recente il nuovo direttore della stampa Massimo Giannini ha fatto tre promozioni e ha promosso tre donne, capo della redazione romana, una collega e anche le sue vice sono donne. Secondo te nelle redazioni dei giornali dove vige un patriarcato piuttosto severo, lo posso dire io che ho cominciato negli anni Ottanta, sta cambiando qualcosa o i direttori resteranno per sempre maschi? Non lo so, io ho lavorato negli anni con tante donne che hanno fatto anche i miei capi o mie colleghe, ce n'erano di brave, ce n'erano di meno brave, come esattamente come nei maschi. È vero che è sempre stata una professione tradizionalmente maschile e credo che sia una questione di ricambio generazionale, ci vorrà del tempo, ce ne vuole, magari c'è chi vorrebbe che tutto il processo fosse accelerato, però io penso che nei prossimi anni ne vedremo sempre di più, così come vediamo tante giornaliste in televisione, meritoriamente, anche ce ne sono di molto brave, le vediamo a fare inchieste in giro per il mondo, scrivere, insomma ci sono, stanno emergendo, quindi credo che sarà che sia questione di aspettare un po' e questo tipo di riequilibrio avverrà. Io penso sempre che non servano davvero le norme o le quote o le imposizioni dall'alto, anche perché poi spesso si rivelano sgradevoli. Penso che serva riconoscere il merito delle persone e la qualità del loro lavoro. In generale, se si stesse un pochino più attenti alla qualità del lavoro dei giornalisti, probabilmente ci sarebbero anche molte donne in posizioni diverse e più di peso. Caro Francesco, tu hai ragione, ma questo sarebbe il mondo ideale. E nel mondo invece reale, almeno in Italia, il merito conta relativamente, un po' in tutti i settori. Comunque, speriamo che dopo aver scritto La malattia del mondo, tu possa scrivere come dire un sequel invece che La malattia del mondo, La guarigione del mondo, ce lo auguriamo perché sarebbe come dire un fatto positivo per tutti. Grazie a Francesco Borgonovo, giornalista della Verità, e se non siete d'accordo con lui o se siete d'accordo con lui fatecelo sapere, 828 12 12 con i vostri messaggi vocali. Io ringrazio come sempre tutti voi per averci seguito, vi do appuntamento se vorrete lunedì mattina, cioè domani mattina, mi ritrovate sempre su questa radio, Radio 24, alle 8:20, 24 mattino con Simone Spezia. Ciao!